America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. When I was a child, I see myself becoming a mother with a beautiful family in the house, you know, with the beautiful flowers in the garden, with the dog. I didn't expect at all a life like this. Non mi sarei mai aspettata di poter vivere la vita che sto vivendo oggi. Chi parla è Frida Giannini, che è la direttrice creativa di Gucci, protagonista di un documentario, The Director, che è stato proiettato al Tribeca Film Festival. Ecco, è uno di quattro film dove c'è un'impronta italiana. Ce ne sono poi altri tre che sono stati accolti tutti, devo dire, molto bene, per esempio Ali agli occhi azzurri di Claudio Giovannesi, che è la storia di un sedicenne a Roma che è in bilico tra l'essere arabo e l'essere italiano. Alberi di Michelangelo Frammartino, una videoinstallazione in omaggio alla natura, alla vita bucolica. Ecco, devo dire, i giornali americani ne hanno parlato davvero molto, è un film che ha colpito. Il turno di notte lo fanno le stelle di Edoardo Ponti, che racconta dell'incontro tra un uomo e una donna che entrambi stanno per avere un intervento a cuore aperto. Ecco, siccome il Tribeca Film Festival si è chiuso ieri e siccome questi film italiani o di matrice italiana sono i più numerosi da quando il Tribeca Film Festival si è inaugurato, beh, vorrei parlare di cinema italiano in America, vorrei anche parlare un po' di questi film. Lo faccio con Antonio Monda, un amico, un collega, professore di cinema a NYU, scrive per La Repubblica. Buongiorno Antonio. Buongiorno e grazie per avermi invitato. Eccoci Antonio, allora cominciamo da questo poker tricolore, perché quattro film, c'erano stati in passato quattro film italiani o è un primo? Quattro non ne ricordo neanche io, ormai siamo alla 12ª edizione. La cosa da aggiungere è che sono anche film di ottima qualità. È buono quello di Edoardo Ponti, il cognome tradisce l'origine, la mamma è Sofia Loren, sì. È ottimo il film di Claudio Giovannesi, Ali dagli occhi azzurri, è certamente una straordinaria installazione Alberi di Michelangelo Frammartino ed è certamente ben fatto anche il documentario della Voros su Frida Giannini. Come sapete, Frida Giannini è a capo dell'impero Gucci, no? È la persona che dà la linea e decide che tipi di vestiti, che tipo di borse, che tipo di scarpe indosseranno uomini e donne anno dopo anno, ed è una donna di Roma, addirittura racconta nel documentario di provenire dalla Garbatella con molta semplicità, fa vedere i suoi genitori, fa vedere la sua casa a Sabaudia, nonostante la regista Lavoros non sia italiana, sia di origine dell'Est Europa, ma è un film prettamente italiano su un grande marchio italiano. Ecco, a New York in questo momento però ci sono anche dei film italiani de sé. Ecco, se non sbaglio, Antonio, tu hai fatto parte del comitato organizzatore per portare questi film italiani. Ecco, parlaci di questo, di quest'altro. Assolutamente, innanzitutto ti ringrazio per averlo citato. Allora, si tratta di un progetto molto ambizioso, onestamente devo dire di esserne anche orgoglioso. Per 8 mesi, cioè da adesso fino a novembre, e stiamo cercando di estenderlo fino a dicembre, un cinema normale nel quale il pubblico va pagando un biglietto, quindi non si tratta di un'istituzione per quanto nobile come il MoMA, ad esempio, come l'Inconsente, un cinema vero e proprio, ospiterà ogni mese, una settimana al mese, due classici del cinema italiano, e si chiama 8 decadi di cinema italiano perché ogni mese si racconta una decade diversa. Abbiamo iniziato venerdì scorso con Roma città aperta, è venuta a presentarlo Isabella Rossellini, che ha parlato del lavoro del papà, e fra pochi giorni debutta Riso amaro. Il mese prossimo ci saranno gli anni 50 con Umberto D, poi ci sarà La terra trema, poi gli anni 60, 70, 80, ma il vero progetto, e voglio con questo ringraziare l'altro curatore, Richard Pegna, e l'organizzazione Cinecittà, in particolare il presidente e amministratore delegato Roberto Ciccutto, che l'ha fortemente voluto, il grande obiettivo e far conoscere, man mano che ci avviciniamo ai giorni nostri, il cinema contemporaneo. Infatti chiudiamo con Paolo Sorrentino, che a nostro avviso è il regista più significativo che abbiamo nella nuova generazione oggi in Italia. Ecco Antonio, questi film all'Inconsente, ma come li avete scelti? Qual è il criterio con cui si sceglie un film? Perché ce ne sono centinaia, insomma, in 80 anni, a voglia. Guarda, ci sono due elementi importanti. Primo, ovviamente, insieme al co-curatore, che è Richard Pegna, abbiamo pensato di privilegiare l'alta qualità, quindi l'eccellenza. Secondo, abbiamo fatto una scelta molto chiara, un regista per un film per ogni regista, non più di uno. Terza scelta, anche il materiale a disposizione, cioè ci sono delle cose ideali che uno non riesce sempre ad avere, e quindi ci si deve anche rifare sulla disponibilità delle copie. Quarta ed ultimo motivo di scelta, abbiamo anche evitato dei film straordinariamente noti ma magari visti recentemente, per esempio 8 e mezzo recentemente è stato al Film Forum, non l'abbiamo riproposto, eppure è certamente un capolavoro assoluto. E che cosa avete scelto di Fellini? Di Federico Fellini abbiamo scelto La nave va, perché è un capolavoro della tarda maturità del grande maestro, e crediamo che possa piacere perché rappresenta al meglio l'immaginario di Fellini. È un film decadente, malinconico, ma pieno di visioni. Pensa solo al finale, con l'uomo che rimane con quel rinoceronte in mezzo al mare. Credo che sia un film di struggente bellezza. Ecco, parliamo più in generale di cinema italiano in America. Dunque, secondo te, chi è il regista o qual è il film che ha colpito di più l'immaginazione degli americani, il film italiano? Allora, se mi chiedi qual è il film che ancora adesso unifica diverse generazioni e che batterebbe gli incassi di tutti gli altri film successivi e sarebbe in assoluto un incasso straordinario, La dolce vita. Cioè l'incasso che fece nel 61-62, quando uscì, oggi sarebbe in decine e decine di milioni di dollari, cioè sarebbe equivalente ad un grande film, parlo grande dal punto di vista commerciale, americano. Poi se mi dici, al di là di Fellini, che comunque rimane l'indiscusso maestro, il cinema italiano che ha sfondato qui, i film sono inevitabilmente quelli che poi hanno vinto anche l'Oscar, quindi La vita è bella di Benigni, Nuovo cinema Paradiso, in misura minore Mediterraneo, non perché sia meno bello, ma perché ha avuto un riconoscimento di pubblico un pochino minore. Nuovo cinema Paradiso, ecco, è stato un film molto bello, a me è piaciuto molto, qui in America ha avuto un grande successo, ha vinto l'Oscar. In Italia è così, era stato un po' maltrattato, trattato con una certa sufficienza. Dai critici, naturalmente, sì, certo. Che avevano un atteggiamento così intellettuale, lo giudicavano, lo consideravano un film troppo semplice, sì, un film sì. Che non faceva abbastanza ricerca, eppure era una storia bellissima che alla fine ti lascia sempre commosso. Dunque, come dici tu, il film criticamente non ha avuto un'accoglienza pari all'accoglienza che ha avuto nei festival, perché non dimenticare che ha vinto anche il secondo premio a Cannes prima di vincere l'Oscar, con Martin Scorsese presidente della giuria. Il motivo è molto semplice, è un film accusato di essere nazional popolare, di non essere troppo raffinato, di parlare appunto alla pancia e non al cervello, di essere un po' retrò, di essere un po' malinconico, di avere un bambino protagonista, tutti elementi che hanno in realtà decretato il grande successo e forse sono anche la qualità del film. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo chiuso col Tribeca Film Festival. Voglio proporvi una canzone che è la colonna sonora di un documentario sulla band indie rock The National. E dunque a loro dedichiamo la canzone del giorno, The National, Mistaken for Strangers. Che tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.